Il Signore disse a Mosè: ordina ai figli di Israele e di a loro. Poiché state per entrare nella terra di Canaan, la terra che otterrete come eredità. La terra di Canaan. Il vostro confine meridionale sarà dal deserto di Sin a fianco di Edom, e il vostro confine meridionale sarà all'estremità del Mar Morto a est. Poi il vostro confine meridionale girerà verso la salita di Akrabbim, passerà per Sin e i suoi sbocchi saranno a sud di Kades Barnea. Uscirà a Khazar Addar e passerà per Asmon. Da Asmon il confine girerà verso il torrente d'Egitto e finirà al mare. Il vostro confine a occidente sarà il mar Mediterraneo. Questo sarà per voi il confine occidentale. Questo sarà il vostro confine settentrionale. Dal mar Mediterraneo vi traccerete una linea fino al monte Hor. Dal monte Hor traccerete una linea fino all'ingresso di Kamat, e lo sbocco del confine sarà a Zedad. Il confine uscirà poi a Zifron e il suo sbocco sarà a Khazar Enan. Questo sarà il vostro confine settentrionale. Per il confine orientale vi traccerete una linea da Khazar Enan a Sepham. Il confine scenderà da Sepham a Ribla, a est di Ain. Il confine scenderà e lambirà il fianco del lago di Genezaret, a est. Il confine scenderà al Giordano e il suo sbocco sarà al Mar Morto. Questa sarà per voi la terra secondo i propri confini all'intorno. Mosè ordinò ai figli di Israele: questa è la terra che vi spartirete in sorte, che il Signore ordinò di dare alle 9 tribù e mezzo, poiché la tribù dei figli di Ruben, secondo la casa dei loro padri, e la tribù dei figli di Gad, secondo la casa dei loro padri, e la metà tribù di Manasse hanno già preso la loro eredità. Le 2 tribù e mezzo presero la loro eredità al di là del Giordano di Gerico, a oriente. Il Signore disse a Mosè: questi sono i nomi degli uomini che spartiranno tra voi il paese: il sacerdote Eleazaro e Giosuè, figlio di Nun. Prenderete anche un capo per ogni tribù, per fare la spartizione della terra. Questi sono i nomi degli uomini: per la tribù di Giuda, Caleb, figlio di Jefunne. Per la tribù dei figli di Simeone, Samuele, figlio di Ammiud. Per la tribù di Beniamino, Elidad, figlio di Chislon. Per la tribù dei figli di Dan, il capo Bucchi, figlio di Iogli. Per i figli di Giuseppe, per la tribù dei figli di Manasse, il capo Anniel, figlio di Efod. E per la tribù dei figli di Efraim, il capo Chemuel, figlio di Siptan. Per la tribù dei figli di Zabulon, il capo Elisafan, figlio di Parnac. Per la tribù dei figli di Issacar, il capo Paltiel, figlio di Azzan. Per la tribù dei figli di Aser, il capo Achiud, figlio di Selomi. Per la tribù dei figli di Neftali, il capo Pedael, figlio di Ammiud. A questi il Signore ordinò di dividere tra i figli di Israele la terra di Canaan.